Mi piace legare e slegare le tue dita. Non sono esperto, lo so, né accademico del tatto. Inoltre, non lascerai la tua casa per questo. Né mi dirai una sola lettera, né il tuo sofferto silenzio, neanche vorrai ascoltarmi. Solo affermo che mi piace, guardandoti da lontano, fare nodi e boccoli con le tue dita, villeggiare tra le tue nocche i tuoi polpastrelli ed immaginare che vanno e vengono per questo confine di niente, che vado lasciando fra il mio corpo e il mondo a camminare.